You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Un saluto a tutte e a tutti, questa è Oxygen in voce con voi, Amptech. Questa è la trasmissione di musica elettronica di Radio Samarcanda Digital Network e ho aperto questa sezione della trasmissione con un brano estratto da uno dei quattro lavori che Lisa Belladonna ha prodotto nel 2025, un artista che abbiamo conosciuto anche come dimostratrice della Moog Music, quindi della più importante casa produttrice storica di sintetizzatori analogici che il mondo musicale abbia mai conosciuto. E da un altro dei lavori di Lisa Belladonna, prodotto nel 2025, che si chiama Counterpoints, ascoltiamo un ulteriore estratto, Conversations with the Sky. E questa era Lisa Belladonna qui a Oxygen, un estratto da Counterpoints, uno dei quattro album che quest'artista ha pubblicato nel corso del 2025, ma se quattro album sembrano tanti, il numero che invece di dischi che ha fatto uscire Alexi Perala, il produttore finnico, è decisamente esorbitante. Superiamo la venticinquina di lavori in un solo anno e ascoltiamo un estratto dall'ultimo rilasciato da Alexi Perala, che si chiama Grace 14. Thank you. questo era Alexi Perala qui a Oxygen, Grace 14, il titolo dell'ultimo tra innumerevoli lavori che questo produttore ha rilasciato nel corso del 2025, e passiamo a un progetto che si chiama Flux Music for a Performance di Rutger Zuiderfeld con Lucia Gregov. Listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Thank you. E vi ricordo, siete all'ascolto di Oxygen, la trasmissione di musica elettronica di Radio Samarcanda Digital Network. Erano Rutger Zuiderveld con Lucia Gregov, quelli che abbiamo appena ascoltato. Ci scostiamo da atmosfere così ambientali e sperimentali con il nuovo lavoro di Mike Paradinas, che, come vi ricordo, ha appena pubblicato un album a nome Music 1979, che abbiamo avuto occasione già di ascoltare, ma questa volta Mike Paradinas pubblica un ennesimo lavoro con un altro pseudonimo, Tuscan Raiders. Si tratta di Housework Volume 8.

You're listening to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Si trattava di Tuscan Raiders, ovvero Mike Paradinas, con uno dei suoi tanti pseudonimi, che ha fatto uscire due album nel 2025, uno con il nome Music, appunto, l'altro come Tuscan Raiders Housework volume 8. Ma andiamo avanti con un artista che abbiamo proprio conosciuto sull'etichetta di Mike Paradinas, la Planet Mu, Kongs on Pax. Un lavoro che si chiama Waxuktum, pubblicato dalla Display Copy Records. Questa era Kongs on Pax, un lavoro pubblicato da poche settimane che si chiama Waxuktum. Ma andiamo avanti con un nome leggendario nel mondo della musica elettronica, anche se possiamo affermare che ormai vive un po' di rendita. Si tratta di Richard D. James, Aphex Twin, che ha fatto uscire due brani, in realtà sono due versioni dello stesso brano, su SoundCloud, quindi distribuito gratuitamente. Due tracce registrate dal vivo. Sappiamo che Aphex Twin ha in passato infestato letteralmente SoundCloud di brani inediti che ha praticamente regalato ai suoi fans, e quello che stiamo già ascoltando si chiama Zal Ham One.